ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. E va detto però, proprio a proposito del titolo, ci sono più le mezze stagioni, che oggi è il primo giorno di primavera. Speriamo che sia una primavera vera, quindi una mezza stagione che effettivamente arriva. Poi, sempre siccome mi tocca rincorrere il colonnello Giuliacci di sabato, perché come tutte le persone, la gran parte delle persone, insomma, è in giro per supermercati oppure in gita, in viaggi di piacere. Quindi poi l'altra volta era dal dentista, cerchiamo di capire dove sarà oggi e gli chiederemo se questa primavera è iniziata in modo definitivo oppure no. Mi sa che in realtà già un po' tutti, no, abbiamo la percezione, abbiamo sentito previsioni per cui domani, dopodomani forse maltempo, già oggi al centro-sud le condizioni non dovrebbero essere bellissime, però poi ci accerteremo. Invece una cosa che volevo chiedervi dall'inizio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è chi di voi oggi primo giorno di primavera sarebbe in grado di stare tutta una giornata senza il computer, senza le mail, senza Facebook, senza anche il cellulare? Non dovrei dirlo, diciamo che facciamo una piccola eccezione qui dalle 14 alle 15 e non ci sono più le mezze stagioni, così mi potete chiamare al numero verde 800 24 0024, quindi il cellulare teniamolo attivo almeno fino alle 15. Ma qualcuno sarebbe capace? Oggi è una giornata particolare perché c'è questa iniziativa pensata per iniziare appunto la primavera in un modo diverso, dell'associazione Net Dipendenza Onlus, che ha proclamato per oggi la prima giornata nazionale a schermi spenti. Ecco, anch'io se potessi lo schermo, almeno il computer, proprio ne farei a meno, però in questo momento sto lavorando e sono in contatto con voi e quindi lo teniamo acceso fino alle 15. 800 24 0024, come sempre qui il sabato con me Roberta Giordano, per cercare di fare una sintesi delle varie notizie della settimana, ma soprattutto per sapere qual è la vostra opinione sui fatti e se c'è qualche fatto anche che non è stato sulle prime pagine, nei primi titoli, di cui avete voglia di parlare. Qualsiasi notizia, qualsiasi sia la vostra notizia della settimana, potete chiamare al numero verde 800 24 0024 fare i vostri commenti. Intanto non sono mai sola, per fortuna lo sapete, c'è oggi qui come ospite Paolo Berizzi. Ciao Paolo. Buongiorno Roberta. Che è inviato di Repubblica e autore di un libro che è stato appena pubblicato da Bompiani, Bande Nere, come vivono, chi sono, chi protegge i nuovi nazifascisti. Intanto, come sempre, come tradizione, farò parlare Paolo Berizzi sui fatti di attualità che gli sottoporrò man mano con molta libertà, e ogni volta c'è un ospite di formazione diversa, di provenienza diversa, che dice le sue liberamente sulle notizie della settimana. Però mi pare insomma doveroso, Paolo, sapere almeno in 60 secondi di cosa parla questo tuo libro, Bande Nere. Ma Bande Nere è una fotografia scattata in movimento su una galassia molto, molto diffusa, la galassia dell'estremismo nero. Mm-hmm. È un mondo fatto per lo più di giovani, e stimo che sono circa 150.000 i giovani italiani sotto i 30 anni che vivono nel culto del fascismo o del neofascismo, e non tutti, ma molti anche nel mito di Adolf Hitler. È un quadro estremamente complesso ed estremamente vario, una realtà fatta di partiti, di organizzazioni politiche, fatta di scuole, di università, di curve degli stadi, di piazze. Mai come oggi c'è un ritorno, un rigurgito, un riaffermarsi dell'estremismo nero tra i giovani. Io dico che per alcuni versi è anche un po' una moda, per altri è, come dire, forse un processo sociale, politico, forse anche antropologico, dettato dal clima politico attuale, che in qualche modo ha permesso uno sdoganamento di questa realtà. E quindi è un fenomeno in crescita che ho provato a raccontare non nascondendo nulla, nemmeno gli aspetti più scomodi, cioè quelle sponde politiche che in qualche modo permettono a queste realtà di vivere e di affacciarsi con forza. E questo è il libro di Paolo Berizzi, Bande Nere, di Repubblica, ma tantissimi sono i fatti, quindi se già vi viene in mente qualcosa che è successo questa settimana, delle notizie insomma sono state diffuse, o quelle che avete letto in un trafiletto, qualcosa insomma che non è stato messo particolarmente in evidenza, numero verde a vostra disposizione, voglio sapere quali sono i vostri commenti, le vostre opinioni sui fatti infatti 800 24 0024. A proposito di questo tecno stress che dovremmo cercare di battere oggi con questa iniziativa, parlavo prima con Paolo, mi faceva vedere un suo cellulare abbastanza tecnologico, mentre il mio proprio è quasi paleolitico, cioè, però mi dicevi che anche tu non hai voglia di usarlo con tutti i collegamenti con internet, navigando, facendo, usandolo anche fuori per il lavoro come una specie di computer in miniatura, ovviamente, no? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda in questo? Siamo assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. Io ho un tecnotelefonino che rimane per lo più inutilizzato. Lo uso per chiamare, per rispondere, messaggi, per mandare messaggi, e per mandare messaggi, esatto. Quindi un uso basico, diciamo, di questo telefono. Devo dire che ho un'idiosincrasia per le tecnologie in genere, limito l'uso a quello che mi richiede il mio lavoro. Nei giorni come quello di oggi aderisco volentieri alla giornata tecno-stress. E lo diciamo non per altro, siamo giovani sia io che Paolo, quindi non si pensi, ah, ma magari avete un'età avanzata per cui non ve ne importa più di tanto. No, no, proprio questa specie di allergia, devo dire che anche a me una certa nausea ogni tanto queste tecnologie me la danno. Però adesso stiamo brevemente su una sintesi che ogni volta cerco di fare, ovviamente è un tentativo disperato di sintetizzare un po' di notizie della settimana. Allora, sicuramente è molto importante il messaggio storico del presidente americano Obama all'Iran, no? Ha detto, dopo quasi 30 anni di conflitti cerchiamo di darci un nuovo inizio, di lavorare insieme, di arrivare a nuovi rapporti. E sembrava che ieri l'Iran fosse abbastanza aperto e disponibile, invece oggi, non so se hai visto anche tu Paolo, Khamenei, la guida spirituale dell'Iran, ha detto no, sono soltanto slogan, quindi ha chiuso quella porticina che sembrava che ieri si aprisse da parte dell'Iran. Sempre di Obama devo dire che fa delle scelte, a mio parere, coraggiose, senza dover sempre accontentare, no, il colpo al cerchio, il colpo alla botte, così non ho scottetto nessuno. Tra le varie decisioni che ha preso è questa di cambiare rotta rispetto a Bush e di appoggiare il documento ONU sui diritti degli omosessuali. E poi, per invece venire in Italia, lo stupro della Caffarella, sapete che sono stati arrestati ieri due giovani romeni e sembrerebbe che il DNA li abbia incastrati rispetto a quella terribile violenza al Parco di Roma. Poi invece, a proposito sempre di violenza sessuale, è tornato in libertà lo stupratore di Capodanno. Sarà ben felice. Dopo 9 anni di disoccupazione, la disoccupazione cresce di nuovo in Italia. Per 9 anni è rimasta, insomma, diminuiva ininterrottamente, invece adesso è di nuovo aumentata, con un tasso al 6,7% nella media del 2008. Il congresso oggi di AN, per stare invece sulla politica, domani lo scioglimento, domani che è domenica, dovrebbero poi fondersi appunto Forza Italia e AN nel PDL. In Austria sapete che è stato condannato all'ergastolo il padre Aguzzino, che per 24 anni ha segregato, violentato e fatto di tutti i colori alla povera figlia. Le polemiche sulle dichiarazioni del ministro Brunetta, che ha detto che gli studenti dell'Onda sono dei guerriglieri, quindi tutte le polemiche che sono seguite. La lettera di 101 deputati del PDL che ha chiesto di non porre la fiducia al governo sul decreto sicurezza. La questione dei preservativi, l'ex PM di Catanzaro che corre per le europee da indipendente con Di Pietro, è stato indagato a Roma. Sono tantissime le cose. Se avete in mente qualcosa voi, ve lo ricordo, 800 24 00 24. E a questo punto io direi che potremmo fare un collegamento, insomma, con piani più alti. Riflessioni da Marte. Non ci si annoia davvero mai a guardare la Terra da quassù. A ben vedere c'è per esempio chi, condannato, pensate, per aver filmato a tradimento una donna nel bagno di una stazione ferroviaria, si difende argomentando che i bagni pubblici, essendo pubblici, non contemplano la privacy. Insomma, veramente una trovata geniale. C'è chi sostiene poi che i preservativi non sono utili per preservare dall'AIDS. Ci sono i cani killer più imprendibili nello spazio di pochi fazzoletti di terra dei più scaltri latitanti mafiosi. C'è come chi Michael Jackson, che dopo essersi sottoposto, lo sapete, per anni a delicati interventi di chirurgia plastica, vuole che in futuro il suo corpo venga plastinato, ovvero imbalsamato con una tecnica particolarmente artistica. C'è chi ha deciso che lo stupratore del Capodanno di Roma, quello degli arresti domiciliari tanto contestati e revocati dall'urgente decreto antistupri che lo ha mandato dritto dritto in carcere, c'è insomma chi ha deciso che dopo 4 giorni di carcere, nonostante il decreto approvato, il violentatore che ha festeggiato il passaggio d'anno con uno stupro non resti più nemmeno agli arresti domiciliari, ma torni libero come il vento. E del resto, violentare una donna e la sua vita per sempre, che sarà mai, no? Se non una ragazzata, del resto. Per chi invece non ne può proprio più di un capo arrogante e prevaricatore. Si sappia che la Cassazione ha stabilito che all'ennesimo sopruso gli si può spiattellare in faccia, ma chi ti credi di essere, senza rischio di essere licenziati. Paolo, vedevo che scrivevi qualcosa. Stavo scrivendo una lettera a Michael Jackson. Caro Michael, non fare anche questa cosa dell'imbalsamazione. Forse è un personaggio veramente particolare. Forse non avrebbe tutto questo successo, non l'avrebbe avuto se non fosse un po' sbirolato, vogliamo dire, anche un grande artista musicale, insomma. Beh, personaggio sicuramente sbirolato, ma è anche un po' inquietante, devo dire. Sì, inquietante versi. Senza dubbio. Questa sua dichiarazione di implastinamento, come possiamo sì. dire, devo dire che è una ricetta nuova che in qualche modo potremmo anche adottare pure noi, no? Per renderci in qualche modo impermeabile. È un artista tedesco questo che gli ha promesso, e non so se ci sono 150 VIP che già e persone anche comuni che si sono prenotati, se ti vuoi prenotare Paolo non, lanciamo non so. Un appello ai nostri ascoltatori, io per oggi mi astengo, come dire, dal plastinarti. Va bene, cominciamo allora, a proposito di ascoltatori, a sentire il primo oggi, che è Alberto da Cuneo al 800 24 00 24. Alberto. Buongiorno a te Alberto, hai una bella voce primaverile, mi sembra di sentire. Ma guarda, oggi veramente è una giornata particolare, poi ci sono quelle coincidenze che capitano così, no? Ho finito lo studio oggi, ho messo tutto in macchina, sono partito, ho acceso la radio, ascolto sempre voi. Grazie. E ho sentito questa richiesta di una testimonianza di chi non voleva accendere il computer durante questo weekend. Allora non ho potuto che sorridere, perché poco prima stavo smontando il solito portatile per portarlo a casa, per mettere a posto le mail, per preparare il lavoro della settimana successiva, e mi sono detto no, oggi non lo porto. Prima di sentire che io lo dicessi, cioè prima ancora? Prima, sì, difatti poi quando l'ho sentito ho detto ma guarda che combinazione, sono quelle cose che accadono così, no? E così ti viene almeno da sorridere. E sono estremamente soddisfatto di aver lasciato a casa il computer. Bravo. Adesso non posso dire di non usare il telefonino, perché mentirei me stesso, perché ci sono adesso. Non ci potremmo sentire, altrimenti ho detto che si permette questa eccezione oggi, almeno dalle 14 alle 15, no? Ecco. Quindi niente, un messaggio per tutti, lasciatelo veramente a casa durante il weekend. Oggi è una giornata bellissima, fa freddo ma c'è un sole spettacolare. Mi prendo la mia moto, la mia zavorrina, che è mia moglie, e vado in giro. Zavorrina. Senti, ma questo è il gergo proprio del motociclista. Ah, si chiama zavorrina. Sta dietro, sì, è la zavorrina. E sarà per quello che a me non piace mai stare dietro, a me piace guidare, quindi giusto, non mi si può chiamare. Credo. Senti, ma tua moglie la chiami signora, signorina, come si chiama di nome? Marina, bel nome. Senti, tu sai che l'Unione Europea ha dato indicazione ai propri dipendenti di non chiamare più signore e signorina le loro colleghe, perché effettivamente, essendo un termine che è una differenza che si fa in base allo stato civile di una donna, come se una donna diventa signora quando appartiene a un uomo, mentre un uomo è sempre un uomo, giovanotto, come lo vuoi chiamare, però per le donne da tanto tempo esiste questa differenza, e l'Unione Europea, che da un po' cerca di essere politicamente corretta, come si dice, ha deciso appunto di emanare un opuscolo in cui ci sono tutti questi consigli, queste indicazioni. Tu sei d'accordo, Alberto? Assolutamente sono d'accordo. Io le persone che collaborano con me sono tutte di sesso femminile, io le chiamo per nome. Beh, infatti, Elena, Valeria. Che è bellissimo, Marilita. Essere chiamati per nome, no? Anch'io voglio essere chiamata Roberta, per esempio, dagli ascoltatori. Ma Alberto, posso chiederti che cosa fai? Io sono l'amministratore di un centro medico qui, di recente nascita in provincia di Cuneo, a Mondovì. Mm-hmm. Si chiama Istituto Magnus. È un lavoro che ti piace? Molto, molto. Per me è una novità. Io ho gestito aziende di vario tipo e la prima esperienza adesso da 3 anni nell'ambito medico, ed è veramente molto interessante. Ma dimmi un'ultima cosa, Alberto. Ma queste donne che ti circondano hanno dei ruoli anche, diciamo, importanti o...? Certo, ma non c'è ruolo che non sia importante. Ma senz'altro, in qualsiasi contesto. Senza dubbio. Se no faremmo tutti l'ingegnere nucleare e avremmo le strade sporche, adesso per usare una metafora. Hai ragione, ma tutti, diciamo che tutti hanno la stessa dignità ai lavori, perfetto, però sappiamo, no, quando si parla di donne soprattutto si fa questo discorso, dice ma tutti i lavori, però dico nelle gerarchie, ecco lì nella tua azienda, le donne hanno anche dei posti, diciamo, un po'... Di livello responsabilità, di responsabilità. Certo. Giocano un ruolo fondamentale. Poi voglio dire, se vado indietro con la mente e penso a colloqui di selezione che nella mia, ahimè, ormai lunga, nel mio lungo percorso professionale ho fatto, beh, la differenza tra i maschietti e le femminucce è abissale. Lo vogliamo dire? A parità di scolarizzazione non c'è dubbio, le donne sono più forti, hanno maggiore capacità di gestione dello stress, più continuità e anche in qualche modo anche una maggiore vivacità intellettuale. Alberto, sarebbe cacofonico farti un applauso adesso davanti al microfono perché risulterebbe, però immagino, idealmente te lo faccio, va bene? Ma questa è una cosa che io ripeto sempre, chi mi conosce sa che questo è il mio pensiero. Grazie, buona giornata e buona primavera. Grazie anche a te, buona trasmissione. Ciao Alberto. Di nuovo insieme Roberta Giordano, sempre con voi sino alle 15. Accanto a me c'è Paolo Berizzi, inviato di Repubblica e autore del libro appena pubblicato Bande Nere. Il numero verde per voi 800 24 00 24 per intervenire sui fatti della settimana, sulle cose che sentite qui in trasmissione, su altre notizie che vi vengono in mente. C'è sempre il numero verde 800 24 00 24, Gaspare da Bergamo. Però vedevo Paolo che leggeva la concorrenza, se non sbaglio. Stai leggendo il Corriere? Eh beh sì, bisogna. Cioè, naturalmente. E hai visto qualcosa che ti interessa? No, c'è oggi questa notizia che peraltro è riportata da tutti i giornali, della figlia di Totò Riina che aveva pensato bene di mettere su una società con sede a Londra che vendeva divorzi lampo. E stavo pensando che mi diverte la cosa perché noi l'abbiamo intervistata, il mio giornale Repubblica l'ha intervistata non più tardi di un mese fa, e lei si era raccontata come una vittima in qualche modo del suo nome, del suo cognome, no? Diceva: non trovo lavoro perché mi chiamo Riina. Insomma, diciamo. Ora, che apprendiamo che di lavoro ne aveva anche abbastanza, no? Quindi è così, insomma, una delle notizie, delle tante notizie che a volte se non fossero tristi e drammatiche farebbero anche sorridere, no? Sono talmente bizzarre pure così reali. Sentiamo invece qual è la notizia o comunque il fatto che vuole commentare appunto Gaspare da Bergamo. Benvenuto Gaspare. Salve, buona primavera a tutti. Grazie a te. Io sono Gaspare D'Angelo, insegno inglese qui a Bergamo, sono un cosiddetto fannullone per nella terminologia del ministro. Oggi è una giornata particolare perché è la prima primavera in cui libera praticamente l'associazione delle associazioni di antimafia ha manifestato a Napoli con qualcosa come 20-30 mila adesioni, appunto per richiamare l'attenzione sul problema delle mafie. Ecco, voi avete detto poco fa la figlia di Riina, che sul mettendola un po' quasi sul drammatico era, come dire, vittima del suo stesso cognome. Poi abbiamo visto che i capitali, milioni di euro a Londra circolavano come se fossero noccioline, insomma, ecco. C'è un altro caso che volevo dire, visto che avete citato la concorrenza, ieri sulle prime pagine del Corriere, sì, c'era dalle mie parti, io sono della Grigentina, di un paesino che si chiama Cianciana, dalle mie parti c'era un imprenditore, uno di quegli imprenditori che non si piega, che ha dovuto denunciare a alcuni mafiosetti che gli chiedevano il pizzo, e ha fatto arrestare un suo ex compagno di classe con cui divideva le merendine. Quindi pensate come a volte le strade possono dividersi e prendere completamente due sentieri diversi e ognuno agire nel sentiero, come dire, buono, nel sentiero meno buono, e ritrovarsi dopo tanti anni a non dividersi più le merendine ma a voler chiedere la merenda a chi lavora, e che mi sembra una cosa terribile. Questo è quello che volevo dire, poi tante notizie di questa settimana sarebbe lunga. Vorrei semplicemente ricordare che noi qui a Bergamo abbiamo costituito un comitato antimafia dedicato a Peppino Impastato, a proposito di radio, era una delle prime radio libere giù a Cinisi, Radio Out, e anche attraverso la radio, attraverso la parola libera, se incominci a pestare piedi a qualcuno ci rimetti. Come fu per Peppino Impastato, infatti, i 100 passi. Per chi non l'ha visto ha commesso un peccato imperdonabile. Grazie Gaspare. Grazie, buona primavera a te. Infatti lo ricordiamo, l'ha ricordato bene Gaspare, che oggi è la giornata della memoria e dell'impegno antimafia. C'è stata questa grande manifestazione anche a Napoli. Sempre al 800 24 00 24 c'è Antonio da Milano. Sì, ciao Roberta. Ciao Antonio. Dunque, io sono ingegnere nucleare invece e sono dedicato all'informatica, nel senso che sono analista programmatore, e in questo momento mi sto recando da un mio amico proprio per lavorare con degli strumenti che ho dietro il mio PC portatile. Allora, per quanto riguarda queste giornate di questo genere, ben vengano. Quindi dici contro il tecnostress, no? Esatto, di astinenza. Ben vengano. Se appunto questo tecnicismo ci viene quasi imposto, e allora insomma effettivamente uno ha bisogno di una depurazione. Però attenzione, il messaggio che vorrei lanciare è che queste nuove tecnologie davvero consentono un affrancamento da situazioni di ricerca di lavoro o quant'altro, nel senso che se uno si dedica, se studia intensamente a queste nuove tecnologie, può veramente riuscire a trovare un lavoro senza una difficoltà magari tipica che è quella dei quarantenni, ecco. Cioè dice essere aggiornati naturalmente, no? Se uno vuole insomma non avere troppe difficoltà nel mondo del lavoro, al di là del momento questo diciamo di congiuntura piuttosto triste, dici devi essere al passo coi tempi, questo naturalmente, però farla diventare poi una dipendenza, come succede a molti, che dici Antonio, diventa un po' eccessivo. No, allora il discorso è che secondo me, come in tutte le cose, bisogna aggredirle, non bisogna subirle. Se si aggrediscono, se si conoscono, se si gestiscono, allora diventa anche divertente, e quindi lo stress che non esiste, perché se appunto tu ti appassioni ad una certa cosa, qualunque essa sia, appunto non lo fai con piacere. No, ho sentito cosa, ho capito cosa vuoi dire Antonio. Non so se Paolo, sei convinto Paolo Berizzi, che come me quando può insomma se ne libera, Paolo, di computer e parenti vari in senso tecnologico. Ma che dire, io auguro auguro ad Antonio un lieto sabato in compagnia del suo PC. Io preferisco vivere almeno di sabato, no? Noi il computer lo usiamo tutta la settimana, spesso giorno e spesso anche di notte, okay, no. Quindi devo dire che come ho detto all'inizio della trasmissione, io aderisco in pieno e con grande piacere la giornata contro il tecnostress. È verissimo che se uno riesce a trasformare una passione, un lavoro, una mania anche in qualcosa che ci dà piacere, beh, questa è una buona via d'uscita, no? È una buona soluzione. Certo. Ad ognuno il suo mestiere, no? Come dire, quindi ad ognuno la sua passione e ad ognuno le sue manie. E le sue misure, insomma, a volte naturalmente dovrebbe anche avere misura. Siete sempre qui? Roberta Giordano resta con voi fino alle 15. Tra l'altro vi ricordo che domani invece sono in onda alle 19, dalle 19 alle 19.30, è un programma diverso che si chiama Storielle, con un personaggio che questa volta è Kledi Kadio, sapete, il ballerino albanese immigrato anni fa con una nave, che ha una storia un po' particolare, un ballerino che è diventato molto popolare nel nostro paese. Ci facciamo raccontare un po', mi faccio raccontare qual è stata la sua storia, la sua vita, che cosa pensa del nostro paese. Intanto però siamo qui, non ci sono più le mezze stagioni. C'è sempre con me Paolo Berizzi, inviato di Repubblica e autore del libro Bande Nere. C'è sempre il numero verde per voi 800 24 00 24 per commentare i fatti della settimana a vostra scelta con totale libertà. E dicevo, vediamo se Carmelo da Genova ha avuto la pazienza di traghettarsi da quest'altra parte della pausa. Sono un fan della Roberta Giordano. Grazie. Mi ricordo, io ho iniziato ormai la radio qui in cucina è sintonizzata sulla vostra, perché ricordo le serate quando si faceva i commenti di quello che era successo nella giornata, nella con settimana diario, con Roberta Giordano. E poi c'era quel bellissimo stacco con sull'italiano col professor Sabatini, presidente dell'Accademia della, col professor Sabatini, presidente dell'Accademia della Crusca, l'ho fatto per tanto tempo. Sì. Ha una voce suadente la Roberta Giordano. Carmelo, comunque, allora, Roberta, io grazie, volevo sì, soltanto dire questo: io sono un pensionato impenitente, mm-hmm, nel senso che ho ancora voglia di lavorare, in effetti faccio il consulente in un'azienda, però me la prendo comoda. Indubbiamente ho dovuto installare a casa il computer perché per evitare di andare sul posto, quantomeno tutta la giornata in ufficio, no? Certo, è comodo anche, no? Sì, esatto, però lo uso con parsimonia, perché al di là diciamo di quello che può essere la mia conoscenza, perché insomma sono di un'altra epoca, no? Anche se poi mi sono, ho cercato di fare il mio possibile. Ovviamente trovo interessante questo discorso di, insomma, di staccare, certamente, perché almeno ogni tanto rimanere schiavi di queste cose. Però volevo segnalare un piccolo fatto. Cioè, malgrado io fossi diffidente, diciamo per ragione di lavoro, sono andato a pescare, diciamo, quelle che sono le notizie dei vari giornali, diciamo, delle regioni italiane, in questo caso, diciamo, della Puglia, con la Gazzetta del Mezzogiorno, in quanto ho scoperto che c'è una rubrica, la storia, diciamo, hanno una rubrica, come forse altri giornali, in cui di tutti gli anni fanno il racconto molto sintetico, perché evidentemente qualcuno l'ha fatto a suo tempo, di quello che è successo, ovviamente in un certo periodo, che sono dal 35 in poi. Mi ha incuriosito l'anno 1943, che purtroppo per me è stato un anno, eravamo in guerra, diciamo, molto significativo, perché ero a Bari quel periodo lì, c'è stato un bombardamento, io ho perso la famiglia, sono rimasto da solo, no? E volevo capire, siccome so che è stato un fatto eclatante, e qualche tempo fa avevo visto in un quotidiano la rievocazione che, insomma, era stato distrutto un intero quartiere nei pressi del porto di Bari, sì. E volevo vedere se c'era, in effetti non c'era nessun accenno, al che mi sono, diciamo, sentito un po' così defraudato di qualcosa che non è tanto, voglio dire, certo che mi interessava, però voglio dire, ha interessato la storia, anche perché del dicembre, quando è successo 43, eravamo al di là del famoso 8 settembre del 43. Dell'armistizio. Ma quindi cosa hai fatto, Carmelo? Hai chiamato quindi la Gazzetta e li hai rimproverati? No. Io, per carità. No, ho segnalato solo che io ho mandato un'email, quindi ho dovuto sfruttare il mezzo elettronico, no? In quanto ho detto, ma mi sembra strano che quel caso lì, che insomma è stato abbastanza eclatante, anche perché è stato un disastro. In effetti, molto garbatamente, la redattrice del giornale, qualche giorno dopo, mi ha riscritto dicendo: sì, ci scusiamo, noi sappiamo, però non so per quale motivo in quella riedizione c'è storica, stata questa rievocazione, lacuna, però questa mancanza. Ovviamente mi ha detto: si tenga presente che quell'episodio lì oggi è riemerso come fatto, in quanto sembrerebbe che alcune navi che erano state bombardate in quell'evento probabilmente avevano dei rifiuti nocivi, probabilmente sia che, insomma, c'è un'inchiesta. Voglio dire, è una cosa che, per carità, mi interessa fino a un certo punto, ma più che altro volevo vedere poi il fatto personale, quindi voglio dire, mi sono servito di questo mezzo per capire se effettivamente poi sei stato attivo insieme, come? Sei stato attivo, Carmelo, invece di leggere passivamente, di dispiacerti che mancassero, no, questi aspetti. No, anche perché io poi evito, perché sono diffidente, evito poi di andare a infilare in siti, perché ovviamente oggi siamo subissati, perché me ne arrivano tanti email, perché chi cerca, chi offre lavoro, chi offre finanziamenti, tutto, no? Però bisogna stare molto attenti, certamente. Hai fatto bene, tu sei stato molto attento, Carmelo, mi auguro che continuerai a esserlo, insomma, il sabato, la domenica, quando sarò in onda, è sempre con Radio 24. Grazie intanto, Carmelo, allora. Grazie, arrivederci. A presto, arrivederci. Buona primavera. E io invece volevo chiedere a Paolo Berizzi, sai che cos'era il New York Post, no, il New York Times, che aveva fatto questa inchiesta qualche tempo fa, dicendo che probabilmente tra 10 anni... I giornali di cartacei non esisteranno più, e qualcuno dice è vero, non è vero. In ogni caso, in questi giorni il primo quotidiano americano ha dato l'addio alla carta e si è trasferito definitivamente sul web. Si chiama Post Intelligencer, credo che sia questa la pronuncia. Dopo 146 anni di storia cartacea, è diventato appunto il primo grande giornale americano ad abbandonare la carta e passare interamente al web. Tu che, vabbè, lavori in una radio, non so che ne sarà, però la radio sembra che goda di buona salute, insomma, da molti anni. Tu che scrivi per un giornale cartaceo come Repubblica, questa paura te la poni? Beh, la notizia che arriva dall'America è una notizia ferale per molti. A parte il fatto che di nuovo ci porta al tecnostress, perché bisogna consultarlo solo su web, questo giornale. Esatto, ma poi esatto. Per il resto, insomma, si può significare anche un bel bella svolta. È una notizia ferale da una parte e dall'altra credo sia una svolta, ma che in qualche modo segna un processo naturale e ormai incontrovertibile, inevitabile, che riguarda le tecnologie e i mezzi di informazione. Ormai tutti i grandi giornali italiani e non puntano moltissimo, molta parte del proprio spazio informativo sul web, sui siti internet, che sono sempre più ricchi, sono sempre più documentati, sono sempre più ben fatti, bisogna dire man mano. Ben fatti e ben strutturati. Quindi credo che quello che ci dice l'America è in qualche modo quello che stiamo già facendo da tempo anche qui in Italia. Per chi ama la carta stampata, per chi ama l'odore della carta stampata, è ovviamente un passaggio molto, molto duro da accettare e in qualche modo così, che va a rischia di mandare in soffitta dei sapori, degli odori, delle sensazioni, dei che in qualche modo anche, dei riti, no? Che non dei riti che quotidiani che perderemo. Però non ci sono più le mezze stagioni del resto, Paolo. E così va il mondo. È vero. Sentiamo sempre un altro ascoltatore dall'800 24 00 24, che è Fabio da Roma. Fabio. Pronto? Pronto Fabio. Eccoci. Oh, buongiorno. Buongiorno a te Fabio. Buongiorno a tutti. Qual è? Io chiamavo in merito all'episodio quello di Capodanno. Che diventa più che altro dello stupratore di Capodanno, dici, di Roma. Punto. Sì. Per una considerazione di ordine generale. Allora, premesso che io ascolto sempre Radio 24 perché è una delle emittenti che cerca di dare un'informazione critica, ossia non si limita a replicare le ANSA e a promuovere quindi quelle notizie che sono, come dire, sull'onda del momento, ma cercate sempre di approfondire e contestualizzare gli episodi. È un obiettivo, merito, certo. In merito al fatto del Capodanno, il decreto, quello antistupri, è nato proprio sull'onda di questo episodio e sostanzialmente ha configurato una carcerazione preventiva obbligatoria per chi è si è macchiato innocente. Innocente. Non è che si è macchiato, perché uno è innocente fino a prova contraria di essersi macchiato, no? Quindi già questo decreto configura in forma obbligatoria la carcerazione preventiva al di là dei casi configurati dalla legge in cui si determina la carcerazione preventiva come il rischio di cancellare le prove, di reiterare il... Sai però Fabio, sai Fabio che cosa succede in realtà? Intanto c'era una ricerca, se non sbaglio, dell'Istat che avevo consultato poco tempo fa, che dice che poi in Italia alla fine condannati degli stupratori in Italia, l'1% finisce in carcere, una cosa esigua, in più con i processi che si prolungano all'infinito, lo sappiamo che è una pecca del nostro paese, che siamo anche sotto alcuni paesi africani in questo, nella classifica. Quindi questi processi che si prolungano all'infinito, poi gli appelli, i ricorsi, le cose, alla fine veramente finiamo sempre con l'essere, per certi aspetti, non per altri, insomma, la Repubblica delle Banane. Poi se questo decreto è stato approvato, quindi d'urgenza, d'emergenza, per quello che sta succedendo, che cosa però significa far vedere che prima gli arresti domiciliari e si polemizza su questo, allora poi parte il decreto e quindi lo si manda in carcere, sta 4 giorni, poi esce e non sta neanche più agli arresti domiciliari, capisci che anche l'opinione pubblica alla fine dice, insomma, e soprattutto poi le vittime dicono, ma quindi che dici Fabio? Io posso che non voglio in alcun modo basteggiare per alcuno o tantomeno per chi compie questo tipo di reati, era soltanto che, diciamo, restando al dato fattuale, nel caso in spese proprio di Capodanno, quella lì non è stata una violenza sessuale, è stato un atto di violenza fisica, perché entrambi le persone erano tutte sotto l'effetto di alcol. Fabio, no, la ragazza, scusa Fabio, no, questa cosa non si può neanche ascoltare, c'è stata una violenza brutale. Io poi dalle agenzie ANSA eccetera, i giornalisti hanno modo anche di capire, di vedere dettagli e leggere cose che in genere gli ascoltatori non si dicono per questioni di tempo e anche di decenza. Ti assicuro che che come fai a definirla in questo modo? Scusa, Fabio. Devo dire, avevo sentito altre fonti. Insomma, ma non è una cosa che... entrare nel merito di questo. No, ma non puoi dire che però non è una violenza sessuale, una violenza fisica, perché tutte e due, scusami. Allora, una, siccome magari si è bevuta un bicchiere di vino o qualcosa di più, se uno gli viene il pallino in quel momento di farle del male, di violentarla, di segnare la vita, dice vabbè, però avevi bevuto anche tu. No, ma non è nel... È pericoloso, insomma. Non è nel merito, era soltanto nel fatto di ragionare sulle cose, nel senso, no? Che la carcerazione preventiva ha soltanto una finalità, non può essere un'anticipazione di pena quando uno è formalmente innocente per questo reato e per tutti i reati. Ma ci sono, quindi, diciamo, se uno, Fabio, è innocente, non ha subito un processo, allora non può andare in carcere così preventivamente sulla presunzione. Era anche reo confesso, ma chiaramente poi ci sarà un processo, Fabio, e staremo a vedere. Intanto voglio sapere da Paolo Berizzi che cosa ne pensa di questi aspetti, di queste notizie. Ma io trovo, non entro nel merito della decisione del giudice, trovo che scarcerare l'autore di uno stupro e quindi di un reato non solo grave ma anche odioso, che resta, che segna vita una donna, diciamolo chiaramente, non è che qualche tempo dopo si può dimenticare di una cosa così, è una cosa orribile, orrenda, bisogna, insomma, non mi pare che ci voglia tanto a capirlo, no Paolo? Odioso proprio per questo, per le tracce che lascia, anche e soprattutto a livello psicologico, è un danno credo irreversibile per la vita. Certo. Ecco, rimettere in libertà l'autore di uno stupro, di un reato così odioso e così orrendo, io credo che in qualche modo rischi di generare nell'opinione pubblica un messaggio pericoloso. Pericoloso perché? Perché coloro i quali si sentono potenziali vittime di uno stupratore hanno evidentemente la percezione dell'insicurezza da una parte. D'altra parte quelli che in qualche modo costituiscono il giudizio dell'opinione pubblica si trovano a dire beh, ma forse allora che cos'è lo stupro? È una ragazzata? Punto. È un reato leggero? È un errore di una sera? È un messaggio terribile, perché veramente si continua a perpetuare un po' una mentalità che c'è, che alla fine se contate, io non so se tu lo ricordi Paolo Berizzi, ma fino a poco tempo fa era considerata un reato contro la morale, quindi manco una cosa che segnava a vita una donna fisicamente, psicologicamente, che la devastava. Era una cosa come, non so, che so, spogliarsi in pubblico e no, una cosa da buon costume. Ecco, questo voglio dire. Quindi pensate quanto è radicato ancora il fatto che non sia poi un reato così grave, e questo continua a far parte della cultura, ed è chiaro che finché continua nell'immaginario collettivo a essere un reato, che alla fine è una ragazzata, si continuerà naturalmente a giustificare e a fare in automatico. Adesso ce lo dirà il colonnello Giuliaci, se è vero che non ci sono più le mezze stagioni, Roberta Giordano sempre con voi, Paolo Berizzi, inviato di Repubblica, accanto a me, e il colonnello che non so bene dove sia stavolta, colonnello Mario Giuliaci. Ciao Roberta, ciao. Un saluto agli ascoltatori. Sono qua nel Veneto come tuo corrispondente, qua anche mi chiamano così, per vedere il tempo che lusso, fa da queste parti, per vedere se è vero che ci avevo azzeccato o no a dire che arrivava la Bora. E c'è la Bora, c'è. Freddo, è freddino, tira un po' di vento, mi trovo a San Donato di Piave, e ti posso assicurare è un bel cielo sereno, però hai col bacco. Freddino, sono venuto col cappotto e ho fatto bene. Senti, ma ce lo dobbiamo tenere anche nei prossimi giorni questo benedetto cappotto? Allora vediamo. Dunque, tanto l'equinozio di primavera è entrato ieri e non oggi, quindi questo prende in contropiede molte persone che pensavano che fosse il sempre il 21, qualche volta è il 20. Gioca d'anticipo, diciamo. Ha giocato d'anticipo e di fatto è arrivato ieri il freddo, no? Quindi paradossalmente l'equinozio primavera, si è verificato il primo episodio di freddo della primavera. Ma è un freddo che continua. Sì, quando durerà, no? Tu mi avevi chiesto, certo, giusto? Quello che direi, ci preme, che sì. Oggi è la giornata, insieme a ieri, le due giornate più critiche, soprattutto per le regioni adriatiche del Medio Adriatico al sud, perché oltre alle piogge su gran parte del Medio Adriatico al sud ci sono anche queste nevicate fino a quote relativamente basse su Abruzzo, Molise, Campania, Lucania e anche la Calabria. Domani già aumento deciso delle temperature al nord. Aumento, hai detto? Aumento? Sì, aumento, sì, soprattutto sul Piemonte e Lombardia. Ancora qualche residuo piovasco sul meridione, ma poi lunedì e martedì dovrebbe essere di nuovo tempo primaverile su tutta l'Italia. Italia, perché le temperature risaliranno ovunque, quindi un altro assaggio di primavera. Tu mi dirai, ma allora questa volta inizia la primavera sul una volta per tutte? Ma che no, non è così, e purtroppo ci sarà il secondo tempo, come su tutti i film, no? Voglio dire, nel senso che mercoledì credibilmente arriverà un'altra seconda ondata di freddo, anche questa per fortuna di breve durata e che interesserà tutta l'Italia per 2 o 3 giorni. Insomma, è ancora il consiglio un po' sì, tenere il cappotto a portata di mano, questo, no? Ecco, cappotto a portata di mano, non mettete via i piumini, i piumoni, insomma, perché è ancora l'inverno vuol far sentire la sua voce anche su questo inizio di primavera. Benedetto, inverno non è una primavera. Paolo Berizzi, è una bufala, non è una primavera. È una mezza bufala. ma la primavera non si chiamerebbe primavera, stagione mutevole, se non avessi questi alti e bassi. È mutevole, no? Mutevole. Amiamola così, nella sua mutevolezza. Grazie, colonnello Giuliacci. Salutaci il Veneto, allora. Grazie Roberta, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. E buona primavera a te, ci sentiamo ovviamente sabato. Grazie anche a te. Ciao colonnello. E ancora il numero verde 800 24 0024. C'è Adrian da Torino. Adrian. Devi, dovresti buongiorno, però... buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Carissimo Adrian, ci puoi spegnere proprio la radio che si sente tutto un... Già fatto. Grazie, bene. Già fatto. Ti sento già fatto. Prima del mio intervento volevo informare il vostro ospite Paolo Berizzi che ho appena acquistato il suo libro. Grazie Adrian. Ero in macchina, ho sentito la presentazione e subito mi ha affascinato. Addirittura questa efficacia ha avuto il fatto di dirmi che si è fermato. È stato... c'è un caffè sospeso per te Adrian, come dicono a Napoli. Vabbè, ci pensa pazienza. Poi Paolo, sì. Adrian, e quindi a parte poi dedicarti a questa lettura, su cosa volevi tornare? Che cosa volevi volevo commentare? Intervenire sul il discorso di Obama all'Iran. Mm. Ma un po' sono stupito, diciamo, dalla reazione, diciamo, del mondo occidentale alla reazione di oggi di Khamenei, il leader spirituale. Io credo che Obama abbia fatto benissimo quello che ha fatto, perché il problema dell'Afghanistan va risolto insieme all'Iran e gli Stati Uniti sono un po' alle corde lì, insomma, devono risolvere questo problema. E credo che anche, diciamo, dal punto di vista dell'Iran abbia fatto bene Khamenei a non stare ai patti, perché per essere una potenza regionale in qualche modo credo che debba tenere alle corde, diciamo così, gli Stati Uniti e non arrivare a patti. Quindi tu vuoi dire ognuno fa il suo mestiere, insomma. Beh, speriamo che però si possa arrivare un minimo, no? Un riavvicinamento, ne va di tutto l'equilibrio internazionale, ovviamente, della pace. Secondo me sotto banco magari si metteranno anche d'accordo. Ah, però di facciata devono fare quelli che dicono io non ci sto fino a... Poi dopo, bah, speriamo che sia così. Ci accontentiamo anche di un accordo di questo tipo, eh? Che dici? In effetti dopo tanti anni. Direi che è il caso. Poi adesso che si dice l'Iran che si sta armando dal punto di vista nucleare, anche se dice che in realtà è solo per scopi di ricerca, di energia, eccetera, insomma, meglio però se si può cercare di stare pacificamente, seppur difficile. Adrian, ti ringrazio. Grazie a voi. Del pomeriggio. Tuo intervento. Buona primavera e buon pomeriggio a te. Io volevo chiedere a Paolo Berizzi, adesso questa è una domanda da $1.000.000, anzi da 5.300 euro. Dammeli intanto. Ecco, no, tu li daresti per un bacio? Pagheresti 5.300 euro? Dipende da chi. Kate Moss. No, troppi dici? Troppa roba. Vabbè, perché sei sposato, lo dice adesso Paolo Berizzi, giustamente. Lo fa per beneficenza, adesso per un ospedale, mi sembra, pediatrico, britannico, un ospedale per bambini, e sta raccogliendo, distribuisce baci, dice anche un rospo, posso dare un bacio, purché poi di risposta ci siano questi 5.300 euro. Mi sembra un gesto nobile, quindi ben venga. Vero? Baci costosi, ma baci che hanno poi un fine benefico. Sentiamo, ci sarebbe Amalia da Genova, anche se ho pochissimi minuti, perché c'è Valeria Della Valle, la nostra linguista della sapienza, che vorrei interpellare. Amalia, tu mi perdoni se ti chiedo di dire tutto in un minuto? Amalia? Pronto? Amalia, ciao. Pronto? Scusami. Sì, ci sono. Roberta, prima cosa volevo dire che hai una voce bellissima. Grazie, poi ho detto da una donna, splendida, mi fa particolarmente veramente piacere. Accogliente. Grazie, grazie mille Amalia. Allora, io volevo fare due considerazioni circa lo stupro, no? I danni delle donne. Posso chiederti proprio un minuto, mi perdoni? Sì, no, sì. Semplicemente perché prima cosa sono sentenze ad opera di uomini, no? Sì. Quindi che perpetuano un atteggiamento maschilista della società. Che soltanto queste persone, non so, avessero provato soltanto lontanamente cosa significa appunto provare un'offesa, no? Del genere, credo che certe sentenze prenderebbero altra direzione. Credo che tu abbia ragione. Ecco, Mari. Poi seconda cosa è che questo atteggiamento maschilista non fa altro che aggiungere ferita su ferita, ovvero la ferita della persona che ha subito il diciamo l'oltraggio si aggiunge una ferita generalizzata, ovvero di tutte le donne che si sentono la loro autostima è denigrata da queste sentenze, perché allora vuol dire che la donna è soltanto propriamente un oggetto, non più una persona da poter così, ecco, l'oltraggiatore essere messo dentro o fuori con una leggerezza, come cioè, avesse che so, fatto semplicemente uno scherzo. Sì, sì, una ragazzata gusto. Come si diceva prima. Amalia, esatto. Io condivido pienamente, ti ringrazio e ti terrei anche fino a domani a parlare, però mi devi perdonare, c'è soltanto un minuto che devo dare a Valeria Della Valle, giustamente, che ha una pazienza questa donna incredibile. Signora o signorina Valeria, come devo chiamarti? Molti anni fa me lo chiedevano e la mia ribellione cominciava già. Allora, bene, bene, cioè, te l'interam, prego. Ecco, sarò velocissima. Beh, intanto nessuno si è sognato al Parlamento europeo di decidere l'eliminazione di una parola o di un'altra. Erano solo dei consigli rivolti al personale tecnico per l'indicazione da mettere sui documenti o sulle buste. Ma detto questo, appunto, mai niente si deve imporre per quanto riguarda la lingua. Detto questo, non è un'indicazione del tutto priva di senso. E intanto partiamo dal fatto che verrebbe mai in mente di interpellare oppure di scrivere su una busta signorino, quindi non credo e per di più nel 2009 mi sembra che oramai non abbia più alcun senso apostrofare una donna in base allo stato civile, se è sposata o non è sposata, in no? base al suo stato civile. E poi ultima cosa, se risaliamo anche indietro quando Guido Gozzano scriveva gli splendidi versi della signorina Felice nel 1909, c'erano versi bellissimi ma molto maschilisti, pieni di sottile cattiveria. Valeria Del Vallo, io invece non sono cattiva con te, lo sai che sono un po' scapestrata e quindi lo so insieme. E quindi ci risentiremo presto. grazie mille Valeria Della Valle, grazie a Paolo Berizzi di grazie a voi, con me. Grazie a voi per l'invito, grazie alla parte tecnica Giacomo Spunta, all'assistenza di regia a Gigi Borghi. Roberta Giordano vi aspetta domani con Storielle alle 19 e poi invece con Non ci sono più le mezze stagioni, sabato prossimo alle 14. Buona primavera.